Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Non ci credereste se vi dico che sto facendo. Sto cercando in un dizionario l'esatta illustrazione di quale sia la tecnica perfetta del seggiolin del Papa. Ve lo ricordate il seggiolin del Papa? C'era anche una terrificante filastrocca, perlomeno nelle aree perugine, che c'era una brutta assonanza con la parola Papa, che non dirò certo alla radio. Il seggiolin del Papa, si prendevano le mani e si incrociavano impugnando i polsi del tuo amico, formava una specie di quadrato di mani umane e il fortunato si sedeva sul seggiolin del Papa e si portava in giro dicendo appunto il seggiolin del Papa c'è chi e non si dice. Questa è la mattina del ricordo dei giochi della nostra fanciullezza. Ho tra le mani il dizionario dei giochi, sono 6500 giochi di tutti i tipi, da tavolo, di movimento, di carte, di parole, di ruolo, giochi popolari, giochi si facciano da bambine, giochi stupidi, giochi intelligenti, giochi educativi, giochi totalmente diseducativi, che è uscito per la Zanichelli, dizionario dei giochi. Il dizionario dei giochi l'ha fatto Andrea Angiolino. Andrea Angiolino, buongiorno. Buongiorno. Andrea Angiolino è un signore grande, cioè una decina d'anni meno di me, quindi un uomo maturo, autore di giochi, giornalista, che ha scritto appunto insieme a Beniamino Sidoti questo dizionario dei giochi della Zanichelli. Sembra assurdo che ci siano ancora uomini grandi che abbiano dedicato la loro vita e continuino a giocare. E Andrea, come avete messo insieme questo dizionario dei giochi? Intanto perché io e Beniamino giochiamo, ma facciamo giocare, appunto, anche lui è un autore di giochi. Ma voi non lavorate, giocate soltanto o del gioco fate il vostro lavoro? Ne abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo questa fortuna. Lui si occupa anche di manifestazioni ludiche e altro. C'è una cooperativa, Kunza, cooperativa un sacco alternativa, già sembra un gioco il nome della vostra cooperativa. Infatti, io ne ho fatto parte, è nato come collettivo un sacco alternativo nel 77 quando hanno pubblicato il primo gioco Corteo e poi per me è stata come la bottega per un artigiano medievale, nel senso sono andato da loro a imparare il mestiere di autore di giochi e con loro ho fatto giochi radiotelevisivi, giochi per manifestazioni, giochi per riviste, inserti estivi di settimanali e così via. E quindi sì, per noi il gioco è un mestiere, però il bello del gioco in realtà è che è un'attività gratuita e libera, quindi per lavoro cerchiamo di far giocare gli altri in maniera spensierata e divertente. Siete davvero fortunati. Questa mattina lancio una sfida al pubblico, lancio una sfida a voi. 800240024. Chiamateci e raccontateci dei giochi e vediamo se sono in questo dizionario in cui dicono ci sono tutti i giochi del mondo. Già mi ha chiamato Maria la vedo scritta su Facebook, Strega Comanda Colore. Che gioco è Strega Comanda Colore, Angiolino? Questo è un gioco tradizionale dei bimbi, uno di loro fa da capogioco ed è la strega che a un certo punto dice un nome, mettiamo rosso, un nome di colore. Tutti devono precipitarsi a toccare qualcosa di rosso, non valgono i vestiti che hanno addosso, e intanto la strega cerca di acchiapparli, ma può prendere solo chi non tocca questo salvifico colore. Cristiana, che è una cara amica, ex Callipigia, oggi inchiodata a fare la madre a tempo pieno, scrive: per strada, con gli altri bambini, a palla, con la corda, alle signore, vedi, ha giocato troppo alle signore da piccola, adesso fa la signora da grande, in bicicletta, con le pentoline e le Barbie. Valentina, in città, con le macchinine, col subbutuo, con Commodore 64, a pallone in strada, a nascondino, a campana, a volte ammetto non era molto salutare, alla sassaiola. Campana e sassaiola sono comprensibili, vogliamo spiegare? Sì, la campana ha infiniti nomi, paradiso, settimana e così via, si traccia per terra col gessetto, magari su marciapiede o asfalto, quando libero dalle macchine, una griglia di caselle numerate, si tira un sasso sulla casella 1 e si va su un piede solo a raccoglierlo. Lo fanno ancora a campana, è un gioco da bambini degli anni 50, ancora si fa? Sì, lo trovo ogni tanto disegnato sui marciapiedi o nei parchi pubblici, un filino mi commuove perché è un po' raro. Però, per esempio, alcune ditte che producono tappeti di gomma che si nei vendono... parchetti, in qualche parchetto comunale a Roma c'è una campana disegnata. Esattamente. I bambini non sanno cos'è. Guarda, la cosa è divertente, l'ho visto. Mi è venuto un flash di qualche settimana fa. La vecchia che portava i bambini... La vecchia, la zia, la nonna, che portava i bambini al parchetto, cercava di spiegare a delle tate russe che non sapevano nemmeno cosa fosse a cosa servissero quei disegni della campana insertati nel tappetino di gomma antifracassamento di testa di bambino che giustamente mettono le organizzazioni comunali. Quindi ci vuole una tradizione orale di chi ha giocato con questi giochi. In effetti noi cerchiamo di scrivere questi giochi e queste varianti, noi definiamo parole, fra le parole ci sono molti nomi di giochi che si definiscono tramite le regole. Questo fa sì che il nostro dizionario sia anche un manuale per scoprire o riscoprire tanti giochi, proprio perché la tradizione orale rischia di perdersi. Alcuni giochi si chiamano giochi estinti perché non si fanno più, ma se noi abbiamo il loro DNA nel nostro dizionario, chiunque può recuperarli e rigiocarli. Allora, Andrea Rossetti scrive che un professore che conosciamo della Bicocca di Milano giocava a 1, 2, 3 stella. Eh sì, è un altro di questi giochi. Com'era? Non mi ricordo. Il nome l'ho sentito nelle orecchie da piccolo, ma non mi ricordo. Io ho 6500 nomi nelle orecchie, non vorrei sbagliare, però dovrebbe essere quello in cui il capogioco sta spalle agli altri e dice 1, 2, 3 stella, poi si volta e gli altri possono camminare finché sentono 1, 2, 3, poi devono fermarsi perché se lui si volta e vede qualcuno che ancora si muove lo fa tornare alla partenza. Il primo che lo raggiunge e invece vince. Le belle statuine cos'era? Era una cosa bisogna analoga, stare fermi e immobili. Immobili però assumendo delle pose buffe o spiritose, possibilmente senza ridere perché sennò ci si muove. Dunque io ricordo un gioco che faceva sadicamente nostro nonno a me e mio fratello, che ho riapplicato molte volte con i miei figli e quando mi affidano gli amici dei figli turbolenti. Il gioco dell'obbedienza giapponese, così lo raccontava mio nonno. Cioè, praticamente dovevamo stare fermi, non respirare, non muoverci, vinceva chi stava più fermo. Ci lasciava lì un'ora fermi e immobili. L'ho applicato, mi ricordo, un anno fa con dei figli di amici e funziona. Stava facendo una gara che stava più immobile. Era una sorta di mobilizzazione coatta dei figli, non credo fosse un gioco. 800240024. Ricordatemi i vostri giochi della fanciullezza, li sto leggendo su Facebook, ma se voi chiamate vi faccio anche parlare. Schieduno prendeva dei tappi e metteva il suo ciclista preferito incollato dalle figurine, si incollava sul tappo, si faceva un circuito per col terra, gesso, col gesso e poi a stecche chi usciva ritornava indietro fuori, e così si facevano giochi molto... Noi giocavamo molto le figurine lì perché avevamo il vantaggio di avere il marmo dei marmisti del Camposanto, e quindi c'era anche i depositi, ci sono tuttora. Ricordate i giochi con i tappettini, i giochi fatti con le figurine, i tappi delle bottiglie di birra? Allora si facevano dei circuiti, a più che chiamavano i circuiti, non so perché c'è questo slittamento dell'accento. Giochiamo a circuito, dicevano, anche con le palline. E dunque, Serena mi scrive Arimo. O Arimo, non so cos'è. Arimo è una parola usata soprattutto al nord per interrompere il gioco e discutere perché magari un punto non è valido, magari per cambiare le regole secondo i propri gusti. Altrove si dice per esempio pace. Pace, vero pace. Noi lo registriamo come forma abbreviata di Arimortis, perché poi con Arivivis si ripiglia il gioco. Ah, ci si ferma. Pino, buongiorno, ecco il primo ascoltatore. Cosa buongiorno. Ricordi? Senta, io mi ricordo un bel ricordo di un gioco semplice che era Guardie e Ladri, l'avrete già sentito. È vecchio come però il mondo. Però mi ricordo che si giocava per tutto il paese, no? Il paese mio che aveva 5-6 mila abitanti, e poi magari si smetteva di giocare dopo 3 ore, dopo 5-6 ore arrivava uno e ti trovava dall'altra parte del paese, ti ho preso. Tu magari dicevi, non ci gioco, noi non gioco più. No, adesso vieni e ti porto in caserma, tu vieni e sei preso e basta. Ma io non gioco più, non me ne frego, ho girato delle ore per cercarti e adesso vieni con me. E quindi era un bel ricordo. Ah, quindi c'era una diversa interpretazione della fine, sì, del no, gioco. No, magari poi alla fine ci stufavamo dopo 3 ore, non si giocava più. Arrivava uno, tu ti trovavi dopo 6 ore dall'altra parte del paese, arriva uno, ti ho preso, tu non ti ricordavi neanche per cosa. No, no, adesso ti ho preso, tu giocavi con me e ti ho preso, adesso ti porto lì in caserma. Vai in caserma. E tu eri costretto ad andare... Andrea Angiolino, questa sfumata lunga, questa interpretazione sui tempi di fine del gioco, è qualcosa che ti ricorda? Sì, teoricamente noi definiamo anche appunto come con il vocabolario dei giocatori, le azioni che fanno, i materiali che usano. Il gioco dovrebbe avere degli spazi limitati. In Strega Comanda Colore io devo andare in una certa zona. Per te dura tutta la vita, scusa. Però, sì, no, quello certo. Però ogni gioco ha un suo inizio e una fine, poi magari se ne inizia va definito altro. Comunque. Però ecco, va definito, ha delle regole precise. Il bello del gioco è anche quello, che è un piccolo universo che ha dei suoi limiti precisissimi, ha delle sue leggi certe. Quindi sono dei piccoli maniaci quelli che vogliono continuare in eterno al di là del gioco, nel senso che quello lì che dopo 6 ore ancora vuol portare il ladro in caserma. Sì, in effetti il gioco abitua anche a quello, in realtà, a entrare e uscire dalla finzione. Lui qualcosina non l'aveva ben chiaro. A proposito della finzione, per esempio, noi registriamo di Guardie e Ladri alcune varianti, l'ovvio indiani e cowboy, il meno ovvio partigiani e tedeschi, per esempio, che fanno vedere come il ruolo di buoni e cattivi varia. Ecco, in regioni particolarmente politicizzate può essere, sì, che magari, sì, magari più a caldo nel dopoguerra. È bizzarro come appunto noi andiamo indietro e troviamo dei giochi abbiamo parlato di giochi di biglia, ci sono dei giochi di noci che facevano qui a Roma nel 300 avanti Cristo. Con le noci. Esatto, è buffo come i bambini si impossessino di qualunque oggetto, ma poi anche gli adulti, il carta e penna piuttosto che dei computer, quando arrivano questi enormi armadi pieni di valvole e ne fanno strumento di gioco con varianti locali, ma anche con una continuità nel tempo. Io ricordo dunque noi ragazzi dei decenni del dopoguerra giocavamo anche noi molto a guerra. Guerra era il gioco preferito, diciamo. I nostri genitori, freschi di battaglie reali e concrete, di morti e di feriti, non volevano che avessimo mai armi giocattolo in mano, raramente ce le centellinavano, erano dei regali fantastici, facevano vecchi zii, di solito molto più depravati, e costruivamo le armi in tutte le maniere. Però, diciamo, gli schieramenti bellici erano molto ispirati a dei fumetti, la collana eroica e supereroica, quindi erano inglesi contro tedeschi, americani contro giapponesi e qualcosa del genere. Natalia, buongiorno. Buongiorno. Cosa giocava? Allo straco, cioè che un modo locale di chiamare la campana. Ah, sempre cioè, la campana è comunque. Però straco dal greco ostrakon, pietra, cioè, sasso. La pietra, il sasso, e lo chiamavano straco, giochiamo allo straco. Cioè era il sasso con cui tracciavate per terra il disegno della campana. Sì, però era il nome, quindi per localizzare, cioè noi, essendo nata a Filadelfia, provincia di Vibo Valentia, era proprio bello. Lei ce la fa ancora a saltellare nella campana? Non penso, cioè potrei anche provarci quando lo mostro a mia figlia, però è bello avvicinarsi al modo locale, cioè la nostra radice greca, no? E lo straco. Va bene, mi fa piacere, grazie. Stefano. Buongiorno caro Luca. Cosa giocavi? Ma c'era il gioco del cerchio, la campana. Il cerchio com'era fatto? Un cerchio vero? A volte si usava anche un cerchio di bicicletta. L'hula hoop, cosa ci facevate? Con il ferro si correva il cerchio. Ah sì, con un bastoncino si faceva andare. Ma un gioco arcaico, sì. Ottocentesco. Sì, poi c'era la lippa. Ah, la lippa, sì, me la raccontava anche mio padre. Era pericolosissimo. Descrivi però cos'è la lippa, perché sennò non lo la sa. La lippa, cioè, c'era un bastone corto, fatto a punta, che si appuntiva strusciandolo sull'asfalto, sul marciapiede. No, si dava un colpo sulla punta, saltava in aria e poi gli davamo il colpo. Sì, però quando ricadeva a terra si infilava in un occhio di un ragazzino spesso. Sì, era pericoloso. Lo so, c'era qualche pericolo, ma la vita è così. Il gioco delle piastrelle, si faceva un buco a terra. Sì. Si metteva una piccola piastrella in verticale. Sì. Quelle lì del, diciamo, da rivestimento. Esatto, sì. E poi si buttava poi le piastrelle tonde di marmo. E chi colpiva, chi batteva quella piccola barriera si prendeva quello che c'era dentro di premio. Ah, beh, lì è una specie di pentolaccia. Giovanni, sì. Con cosa giocava? Allora, a parte, va bene, la lippa l'avete detto, noi nelle macchie la chiamavamo il pinè. Allora, fermiamoci un attimo. Andrea Angiolino, la lippa, spieghiamo bene, c'ha vari nomi. Sì. Era un gioco, si faceva una specie di, se non sbaglio, di bastone appuntito. Sì, con le due estremità appuntite. Con un cuneo, un doppio esatto, cuneo. Perché così, sì, battendo uno dei due cunei, roteava in aria. Il pericolo poi è quando si dava... cascava giù, si poteva infilare come una lancia nella testa di un bambino. C'erano meno avvertenze sui giochi. Però quello che abbiamo provato noi, appunto, è registrare non solo le regole, le varianti, le sue apparizioni. Le regole della lippa, così chiariamo una volta. Sì, no, è praticamente un baseball in cui una volta che va per aria si lancia lontano colpendola di nuovo mentre ancora sta volando. Rispetto ai nomi abbiamo registrato Mazza e Mazzuolo, Mazza e Piuso, Nizza, Pandolo, Ghiarè, Scianco o Sciancol, Trillò, Cirimella o Ciaramela, Le Ballonè, Arebusè, insomma ce ne sono anche altri. Invece lei, Giovanni, come la chiamava la lippa? Sì, noi la chiamavamo Pinè, con la P come Palermo. Da che parte stavate voi quando giocavate? In che parte d'Italia giocavate? Qui nelle Marche. Ah, nelle Marche. È nella zona calzaturiera di Montegranaro, esattamente. Ah sì, dove fanno le scarpe, certo. Sì, e dove c'è anche Giancarlo Guardabassi. Giancarlo lo conosce. Guardabassi, non era perugino Giancarlo? Perugino, sì, è perugino. Ah, però, ma è vivo ancora? Come no? Vivo il vegeto. Era già vecchio quando ero bambino io. Cantava, faceva altro cantare. Sì, cantava, adesso lui ha una radio privata dal 76, gestisce quella radio qui. 76, mi sta parlando di secoli fa. Mi fa piacere comunque. Faceva radio 1. Anche che noi giocavamo con le palline di Creta e facevamo il castello, il famoso castello, cioè mettevamo tre palline e un'altra sopra e poi chi si metteva più lontano tirava, e il castello che buttava giù, le palline che buttava giù, era, diventava di sua proprietà. Praticamente noi era come diciamo, era, quello che aveva tante palline era ricco, era bravissimo, diciamo, era... E le palline le facciate da voi di Creta, autocostruite? No, si comprava queste palline. Poi sono uscite quelle di vetro. È vero, sai che ancora me le ricordo, c'erano per casa di qualche zio. Prima delle biglie di vetro, le biglie erano di Creta. Si giocava in 3-4 persone, si tirava fuori 4 palline ognuno, si faceva i castelli, diciamo, in fila indiana. Sì. Ma era bellissimo. E poi ci si posizionava. Chi è quello che si posizionava più lontano dai castelli era il primo che aveva. Era l'eroe che schiacciava le palle agli altri. Andrea Angiolino, sul gioco delle biglie, palle, palline, questa evoluzione della biglia, che oggi è un gioco pericolosissimo. Oggi nessuno darebbe in mano a un ragazzino delle biglie perché se le inghiotte, c'è scritto dappertutto: attenzione, non è un giocattolo, parti staccabili. Ma noi abbiamo le tasche piene di palline di vetro. Sì, infatti di vetro o più di recente di plastica col ciclista dentro, che erano la versione tecnologica dei tappini che si citavano prima per fare le corse. Ciclista. C'è un'evoluzione pure lì. C'è anche una erano cultura... più grosse, però, quelle col ciclista. Esattamente, sì. E leggere per essere lanciate lontano nelle piste tracciate. Tirando per i piedi qualcuno seduto. Ah certo, spendeva uno per i piedi e si trascinava sulla sabbia. C'è un'evoluzione, diciamo. Gli antichi, come dicevo, i romani dicevano lasciare le noci per crescere, perché finché si era piccoli si girava con le noci per fare questi giochi. In tempi rinascimentali magari i bambini si procuravano palle d'archibugio dopo qualche battaglia da usare come biglie. Negli anni 30 dei cuscinetti a sfera di camion, che erano perfetti, quando qualche meccanico compiacente dava questi materiali. Ma hai aperto un flash, un cammellino della memoria, con i cuscinetti a sfera che si andavano a prendere dai meccanici dismessi. Ci si facevano dei carrozzoni meravigliosi, ci si costruivano delle macchinine per andare nelle discese, 4 cuscinetti con 2 bastoni, e guidando lo sterzo con un cordino ci si andava a schiantare contro i muri, ma si facevano dei carrozzoni meravigliosi. Sì, chissà se lo ricorda qualcuno. Noi certamente li abbiamo registrati come carrettini, anche se poi c'è una tradizione inglese anche più formale delle soap box, le scatole di detersivo le chiamano, con cui fanno anche dei carrettini. Quando si faceva la festa della Goliardia a Perugia, poi fu interrotta perché un anno li massacrarono i contestatori. Una volta l'anno Perugia, una città su una collina, dal centro perugino, dalla piazza del Bufani, scendevano gli studenti vestiti da goliardi, così, con questa gara di automobiline fantastiche costruite con degli scatoloni. Mauro. Ciao Gianluca, buongiorno. Sì. Le ricordo anche io le macchinine fantastiche. No, noi all'età di 10-11 anni facevamo un gioco un po' particolare, anche un po' sadomastico. C'è chi lo fa anche da grande. No, dunque noi eravamo tutti ragazzetti che ci portavano al nostro piccolo zoo di città. Ma dentro le gabbie o a guardare gli animali? No, noi facevamo proprio un gioco molto molto diverso da tutti. Praticamente eravamo tutti appassionati di cavalli, perché bambini, perché all'epoca per noi era fantastico. E che facevate? E allora intorno all'ovale della Vasca delle Oche, perché era proprio una grande parco ovale recintato, eravamo tutti ragazzi, ci davamo un nome di cavalli che recuperavamo. E correvate come i cavalli? E facevamo proprio le corse di cavalli frustandoci con i rami e le gambe, con tutte le ragazzine che facevano il tifo per ognuno di noi. E alla fine? E alla fine toccava il bacino a chi vinceva da quello. Sì, c'era una sottile vena sadomasochistica, cioè vi frustavate e poi venite gratificate la ragazzina che lo pigliava più bastonato. Noi eravamo poveri. Ognuno si diverte come può, come vuole, poi crescendo magari capisce se quella è la sua vocazione. Grazie, lasciamo la linea velocemente alle informazioni della borsa. Email melog@radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Incantesimo. Gioco a rincorrersi, in cui chi sta sotto si immagina di essere un mago o una strega. Per questo ha il potere di paralizzare gli altri quando riesce a toccarli. Chi viene preso deve rimanere impalato sul posto senza muoversi, ad esempio in piedi con le braccia tese ai lati fino a quando non venga liberato dal tocco di un compagno di squadra. Il mago vince se riesce a bloccare tutti. Mi sorprende vedere come i luoghi della contemporaneità in cui si esprimono le tendenze più attuali nel relazionarsi, e in fondo il social networking è un grande gioco collettivo, come appunto Facebook, questa mattina sono rifioriti di ricordi arcaici, quanto semplicemente evocare i giochi della fanciullezza improvvisamente abbassi tutte le differenze, livelli tutti gli status culturali, gli status sociali, l'alfabetizzazione con le nuove tecnologie. Ecco, sono pieno nei vari profili, quello ufficiale, quello pubblico, quello privato, da persone che mi elencano giochi. Anna Maria, in cortile la settimana, le conte, l'orologio di Milano fa tic tac, le belle statuine, in bici il nonno contava i giri, a pallone, a dama, pallavolo, alle cinque pietre, elastico, saltavamo la corda, pattini, all hop, palla avvelenata, figurine, macchinine, caccia alle mosche, biglie, a cocis, subbuteo, cerbottana, poi volevamo costruire a pallone volante, allego, e quattro angolo, zecchino d'oro, giro tondo. Poi, Lego, molti dicono il Lego, è un grande gioco, vedo che rimane trasversale. Costruiamo qualunque cosa. Poi, scaletto scalino, questo è Claudio, ci mettiamo sulle scale e facciamo scivolare con un tocco le figurine panini, doppie sugli scalini sottostanti. Chi riusciva a sovrapporre una figurina con quella del concorrente, intascava tutte le figurine, è vero, era un gioco a figurine. Poi, tiravamo gavettoni Marco alle macchine che giravano in paese e poi via di corso, oppure si andava a mangiare la frutta per la campagna. Non era rubare, attenzione, c'era tutto un codice comportamento, si mangiava tutto sul posto, ciliegie, prugne, albicocche, mele. Non si portava via niente, una volta ci hanno inseguiti con un fucile. Ancora si andava a pesca in paese, alle feste patronali, in cerca di ragazze. Un bastone con l'estremità veniva legato a una forchetta, questo è Lamberto. Andavo con i miei amici a infilzare i marzoni nel Brenta. Sono pesci, marzoni, non lo so, i marzoni. Nessuno si è mai sentito cacciatore, torturatore, lucertole, lucertole, ramarri? Non si può dire perché oggi si rischia la galera, però devo dire che le lucertole in realtà furono selvaggina molto appetibile quando si era fanciulli negli anni 60. Gioco del portafogli. Prendere un portafoglio, legarlo a un filo da pesca, gettarlo per strada e nascondersi dietro al muro. Vedere le auto inchiodare per prenderlo. Mentre l'automobile scendeva, tiravi via il portafogli tramite il filo e risate. Come si incazzavano gli automobilisti. Poi Stefania. Tutti i giochi di acchiapparella, il lupo mangia la frutta, tocco terra, alzo bandiera, dichiaro guerra, il classicissimo nascondino, la sua movimentata variante per grandi spazi. Poi un altro, c'è un altro gioco che sarà inventato lui, vediamo un po' che è molto... Michele, giochi per... Dunque io mi sono inventato da piccolo il gioco della morte, da me inventato, due squadre in uno stanzino completamente buio, ognuno barricato dietro un riparo, armi erano le bottiglie di plastica dove mettevamo l'acqua per fare più male, e poi mazzate a nastro, e questo è un gioco. Abbiamo in studio Andrea Angiolino, autore di giochi e giornalista, assieme a Beniamino Sidoti, ha scritto in 10 anni, ci ha messo 10 anni, il dizionario dei giochi, edito dalla Zanichelli, che sono 6.500 voci, 6.500 lemmi legati ai giochi. Una prima impressione rispetto a quello che hai sentito intanto le mie letture, poi adesso ho una fila di telefonate che non vedono l'ora di raccontare i loro giochi. Il nostro paese, che è una striscia verticale, è differenziato nei giochi da regione a regione o sono gli stessi giochi che cambiano nome? Ma un po' tutte e due le cose, ci sono dei giochi tipici, adesso siamo sotto Natale, ovviamente la stop e il mercante in fiera, ma per esempio sotto Lamiata si gioca il gioco del panforte, lanciandolo su un tavolo lungo e cercando di farlo arrivare il più lontano possibile senza farlo cadere, questa è una cosa tipica di lì perché nasce attorno al lancio del panforte. Per dire, ci sono tante cose, quello è proprio locale, altri invece si trasformano, variano. E lì è difficile poi capire quando abbiamo un gioco diverso o una variante dello stesso. Noi abbiamo cercato di inseguire sia le regole che poi i nomi. Addirittura il colpo di dito che si dà sulle già citate biglie e tappini, qui a Roma si chiama schicchera, verso Modena si chiama cricco, a Genova è la biscellata. La sleppa abbiamo... anche. Esatto, non abbiamo trovato un nome nazionale, ne abbiamo trovati tanti locali. E in a questo Perugia labirinto, il pittolo. Noi cerchiamo di orientarci in questo dizionario. Devo dire che c'è una ricchezza almeno paragonabile a quella delle nostre cucine regionali, per esempio, dove ci sono dei tratti comuni, ma anche una quantità enorme di ricette locali o magari di varianti di ricette pescate altrove. Diamo voce a alcuni ascoltatori, 800240024, raccontate i giochi innominabili, dimenticati dalla vostra fanciullezza. Giuseppe. Buongiorno. Che facevate? Parlo da Chieti. Noi giocavamo a sbattamuro, praticamente con le monetine da 5-10 lire, buttavamo, eravamo 4-5, buttavamo contro il muro, e quello che si avvicinava di più al muro praticamente prendeva le monetine degli altri. Era anche un gioco simpatico, ci impegnava. Sì, sottomuro, battimuro, vari nomi, sì. Questo insomma, i giochi negli anni 60-70 insomma. Si fa ancora, Andrea Angiolino, il battimuro? Sì, no. Magari con delle varianti, appunto qui è citato con le monete, lo si gioca anche con le figurine, lo si gioca anche con le biglie, in tutti quei piccoli giochi d'azzardo dove lo strumento di gioco diventa anche preda del vincitore. Ma diciamo, con l'entrata dell'euro ci sono tantissime monetine, sembrano fatte apposta per giocare, perché con le monetine di rame che ci si fa se non giocarci? Sembra un ritorno, appunto, sono monetine antiche, sono arcaiche. Le monetine di rame che oggi ci sono ce le sognavamo noi, perché le 5 lire, le 10 lire, una lira sono scomparse dagli anni 70 in poi. Oggi siamo pieni di monetine. In effetti va recuperato. Fra l'altro, appunto, ci sono giochi come Teste Croce che nascono proprio sulla moneta, per dire, e addirittura hanno Arma e Santo, si chiamano sotto il Papa perché c'è un santo da una parte, Navis... et capita, adesso non ricordo il nome latino esatto, io purtroppo non sono fresco di studi, ma i romani avevano una nave da un lato e una testa dall'altro, e già giocavano questi giochi qua. La moneta è un ambitissimo oggetto di gioco, però appunto questo gioco qui si fa con varie varianti, con vari materiali, non sono giochi scomparsi in realtà. Italo, buongiorno. Cosa giocavate? Noi giocavamo un gioco che traduzione in italiano non lo so, comunque noi lo chiamavamo Giru Cavegno, che vorrebbe dire... Noi da dove parlava? Da dove giocava? Si svolgeva a Sanremo. Sanremo, Giru Cavegno. Giro proprio dire girarsi, che vengo, che arrivo, no? Si metteva, erano due squadre... Cioè girati che sto arrivando, beh, è ambiguo come gioco. Perfetto, allora si metteva uno appoggiato a una parete con la schiena... Ah, ecco, come dicevo io, infatti. E poi se 3, 4, 5, dipendeva quanto poi il numero dei giocatori, il primo avvinghiava alla vita quello che era appoggiato al muro, e si metteva a curvo, e tutti gli altri si mettevano dietro. Cioè il gioco del trenino praticamente. Non so, la difficoltà era che a quei tempi erano tutti madri però, e uno prendeva il primo, prendeva la rincorsa, poi doveva saltare il più dentro alla striscia. Ah, la cavallina allora era. Non so, noi lo chiamavamo così. E la capacità era quella di stare in equilibrio sopra e che gli altri non crollassero dal peso di quelli che si saltavano sopra. Ed era abbastanza impegnativo. Andrea Angiolino, questo gioco qua di accavallamenti, ne hai sentito parlare? Sì, sì, come si chiama? La cavallina è quello in cui si scavalcano gli altri. No, ma qui mi sembra sia una cosa più statica. No, infatti c'è il crescimontone, per esempio, saltamontone, dove man mano ci si accumula. Beh, più di due o tre, quanti si può diventare? Ci può essere una squadra addirittura che si predispone a farsi saltare sopra dall'altra, che poi inizia a ondeggiare per far cascare. Ci sono varianti a vari livelli di animosità. Si tracolla tutti a terra e ci si fa male. Esattamente. Noi ce n'eravamo un altro, poi, perché l'avevamo inventato noi. Praticamente, quando eravamo tutti in compagnia, erano tutti ragazzi abbastanza vivaci, gli si chiedeva uno di dire la famosa frase che avevamo programmato di dire, che questo se la doveva ricordare in qualunque momento. Una di queste era, ad esempio, chi lo dice? La gente. Che bello Sfrisum, che bello c'è, era un uccello, si chiama lo Sfrosone, si chiama Sfrisum, no? Che bello il Frosone, sì. Poi due cognomi, uno si chiama Sagatà, l'altro Vincenzo, Nicolè Ferrario, che erano due giocatori, no? E se uno non diceva tutte queste frasi in sequenza, prendeva un sacco di botte da tutti quelli che erano. Cioè, era una scusa per menare uno, così, diciamo. Era una scusa per menare uno. Vabbè, però uno diventava vispo che se le doveva ricordare, se le ricordava, altrimenti erano. Dal lupo e l'agnello in poi, c'è sempre avuto bisogno di scuse per dare addosso a una persona. Va bene. Grazie. Italo. A Italo abbiamo già detto. Helios. Buongiorno, senta, io volevo raccontare solamente un gioco che facevano... Dicano prima l'area geografica in cui si svolgeva il massacro. Grotto di Castro, in provincia di Viterbo. Provincia di Viterbo. Ecco, ricordo che verso il 1955 gli uomini adulti, padri di famiglia, era chiamato la ruzzela. Era una ruota di legno di circa 25 centimetri di diametro. Avvolgevano una cinghia di cuoio attorno a questa ruota. Ah, la ruzzola. La ruzzola, e la lanciavano lungo la strada. In quel periodo le macchine erano pochissime o nulle, però apportavano appresso una piccola botticella di vino che veniva chiamato il barilotto. e ogni tanto bevevano e quando tornavano l'allegria era massima. Erano ubriachi. Cioè, era una scusa per tirare questa ruota, gli correvi dietro e bevevi. Sì, lo fanno anche da qualche parte con le forme di parmigiano, qualcosa con forme di formaggio. Sì. Lasciamo la linea un attimo per le informazioni dal traffico, ci sentiamo tra un istante, chiamate sui giochi della vostra gioventù. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Maiorchina. Gara di lancio analoga al ruzzolone, effettuata a Novara di Sicilia. Ad essere scagliato non è un disco di legno, ma una forma di pecorino maiorchino. I lanci vengono effettuati di volta in volta senza rincorsa dal punto raggiunto in precedenza lungo la strada. In caso di rottura del formaggio, il lancio successivo avviene dal punto dove si trova il pezzo di formaggio più grosso. Allora, Francesco compiva il pericolosissimo gioco, che anch'io facevo naturalmente, delle stecche d'ombrello che venivano staccate dall'ombrello, appuntite su un sasso e diventano delle ottime frecce con le quali si andava a caccia ai lucertole. A me accadeva questo, con l'arco naturalmente. Poi un altro Francesco all'aperto giocava a castellone con due campi e due bandiere a nascondino, poi le macchine telecomandate, i videogiochi, ma quelle verranno dopo, assolutamente. Abbiamo in studio Andrea Angiolino, autore di giochi, ho detto autore assieme a Beniamino Sidoti del Dizionario dei Giochi, edito da Zanichelli, che penso sia è il primo compendio completo, diciamo, di tutti i giochi che possono essere fatti con le mani, con la bocca, correndo, con piccoli oggetti che c'è in Italia, così grosso almeno. Diciamo, di compendi monografici ce n'è tanti, noi abbiamo 600 libri citati nella nostra bibliografia. A tutto tondo ce ne sono pochi e che hanno esplorato poi il linguaggio dei giocatori, perché noi censiamo i giochi ma anche le loro azioni, i tipi di giochi, il campione, il maestro, il puzzone, il guastafeste, il baro, piuttosto che gli oggetti con cui giocano. Come dizionario è l'unico. C'era una bella enciclopedia di Dossena, un'enciclopedia dei giochi, sì, Utet, famoso, certo. Ma quello, l'enciclopedia è un'altra cosa, insomma. Noi siamo andati proprio a partire dalle parole, dal linguaggio, per poi esplorare giochi e modi di giocare. Vediamo Davide. Davide, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Vigevano. Vigevano. Ho 39 anni, sì. Mi avete fatto venire in mente un gioco che non mi ricordavo più, che era Alte Basse, chi le sutra è un pagliaccio, che vuol dire alto in basso, chi rimane sotto è un pagliaccio. E come funziona? Funzionava che ci si arrampicava qualsiasi cosa, si poteva trovare. Bisognava essere sopraelevati per non perdere. Sì, sì, qualsiasi cosa, cancelli, è abbastanza anche pericoloso, colonne, finestre e via dicendo. Ci si salvava se si era su un luogo sopraelevato. Bisogna sempre correre anche sopra un mattone, bastava che essere un po' in alto. Poi i più bravi salivano in cima alle lanci di un cancello, naturalmente, sennò come ci si fa a rimanere castrati. Maria Carmen. Buongiorno signor Nicoletti, io chiamo da Milano e le voglio raccontare questa cosa. Io ho 64 anni e ancora oggi che ho 3 nipotini li metto in gioco facendo Regina Reginella, che è un gioco molto semplice. Come funziona? Funziona che i bambini in fila si mettono in fondo. La regina, in questo caso sono io, ma può essere benissimo anche un bambino. Quando giocavo io erano altri bambini, non c'erano adulti che partecipavano. Oggi, essendo nonna, mi piace fare anche queste cose. I bambini si mettono in fondo da una parte e la regina dall'altra parte. A turno interrogano la regina dicendo: Regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello? E facoltà della regina dire fare 2 passi da formica e i bambini fanno dei passettini piccoli, 2 passi da leone e i bambini fanno un passettone lungo. Poi chiaramente in questo caso le parlo nel mio caso, per non farli perdere o per non farli vincere tutti e tre, ne ho 3, faccio fare loro anche dei passi da gambero, per cui vanno avanti e indietro, fin tanto che poi alla fine li faccio arrivare. Ma lei sadicamente decide chi vince, però. In questo caso sì, il cuore di nonna cosa vuole? No? E se no, che regina è? Allora, le racconto di quando ero piccola io forse le ho già detto, ho 64 anni, c'era un bambino dall'altra parte, per cui era facoltà del bambino fare arrivare al castello della regina quello che era più simpatico. Quindi uno faceva vincere sempre proprio amichetti e faceva schiattare gli altri. nel mio caso, le ho raccontato il mio caso perché chiaramente non è che posso... Cioè il bambino stigato rimaneva sempre indietro. Piuttosto che un altro. Lo so, è dura la vita, ma così si addestravano al fatto che non sempre si trovano amici o gli amici non sono sempre quelli che uno immagina. Giorgio. Pronto, buongiorno. Da dove e che gioco faceva? Allora, io sono della provincia di Imperia. Ricordo un gioco di memoria da fare in più persone. Preparo la valigia. Preparo la valigia, uno incomincia, preparo la valigia e metto dentro le mie mutande. E poi il secondo a giro dice, preparo la valigia, metto dentro le mie mutande e poi deve pensare a qualcosa di suo. Il rasoio elettrico. E poi il terzo, e poi quando finiva il giro si ricominciava, cioè diventa una cosa infinita, fino a che il primo sbaglia. Lo sai cosa mi fa riflettere quello che dice Giorgio? Che noi avevamo tanto tempo a disposizione. I figli quando giocano, c'hanno pochissimo tempo, sono pieni di impegni, entrano e escono, c'hanno 2000 cose da fare tutto il giorno, hanno davanti lunghi pomeriggi, giornate interminabili, poi l'estate quando finiva la scuola cominciano quelle giornate interminabili in cui potevamo stare fuori anche la sera, perché era estate, potevamo stare anche fuori, avevamo veramente tanto tempo, poi è bello vedere l'evoluzione dei giochi. Fabio, che è un ragazzo degli anni 70-80, immagino, anzi anni 80, giocava a Goldrake, riempiva la carriola di palle, palline e giocattoli e la lanciava contro sua sorella. Faceva un'altra carriola piena di giocattoli e le lanciavano come se fossero armi spaziali. Questo era un gioco divertente. Marco. Buongiorno. Che gioco? È il lupo mangiafrutta. E da dove lo giocava? Giocavo in provincia di Venezia quando facevano il rosario, ci mettevamo con i ragazzi e a conta si sceglieva chi faceva il lupo. Gli altri cioè i grandi hanno lì a recitare le preghiere, a fare il rosario. Esatto. Ecco, e i bambini sì, fuori della chiesa, che se ne sbattevano naturalmente, giocavano. Sì, esattamente. A sottovoce sceglievamo un frutto e dopo il ragazzo che faceva il lupo faceva la frase... sono il lupo mangia frutta e noi dicevamo che frutto vuoi e lui doveva dire i nomi della frutta e vi mordevate. Ovviamente. Poi ad esempio se io che non ero lupo sceglievo pesca e il lupo diceva pesca io dovevo correre e lui doveva inseguirmi e se vi prendeva vi mordeva. Noi facevamo i lupi. E beh il lupo che fa quando becca quando il lupo becca la pera cosa fa? Se la mangia? Diciamo che il frutto mangiato dopo diventa il lupo e dopodiché... Ah beh, un simpatico gioco di sagrestia. Ti risulta Andrea Angiolino? Sì, lo abbiamo registrato, è buffa l'occasione. In realtà noi registriamo anche giochi adulti e per esempio alcune delle varianti della ruzzola di cui parlavamo le fanno in certi paesi gli uomini mentre le donne sono a messa durante la quaresima, quindi non sono solo i bambini che si ritagliano tempo libero. Censiamo molti giochi da viaggio da giocare magari... Le donne... si occupano della mortificazione quaresimale, gli uomini giocano a ruzzola. In un caso abbiamo registrato anche quello. Devo dire che ci sono poi molti tempi morti ancora oggi. Noi abbiamo molti giochi da viaggio, magari da fare con carta e penna o solo parlando. Abbiamo dei giochi da fare magari nelle sale d'attesa. Con gli stuzzicadenti che non usano più i ristoranti si giocava aspettando a pranzo. Io ho fatto un viaggio in treno accanto a Roberto Benigni. Per tutto il tempo ha fatto la settimana enigmistica. È stato 3 ore il Roma-Milano a fare la settimana enigmistica. Non ha alzato mai la testa la settimana enigmistica. Sarà divertente questa cosa. Lui in effetti La vita è bella è costruito sull'enigmistica, dove lui è un appassionato dell'enigmistica e ha la consulenza di Stefano Bertezzaghi. Si sono incontrati a Gradara Ludens, una manifestazione dove ero anch'io, e dopo un anno e mezzo è uscito il film. Io non lo sapevo, mi sono rimasto colpito. Beh, io ringrazio Andrea Angiolino. Ci sono tonnellate telefonate, migliaia di messaggi su Facebook. Vabbè, raccontatelo a chi volete, anzi insegnatelo ai vostri figli come si giocava una volta, che oggi i ragazzi se non hanno qualcosa di concreto elettronico in mano non sanno giocare, ma fa parte dei tempi. Ricordo Dizionario dei giochi edito da Zanichelli di Andrea Angiolino e Beniamino Sidoti. Grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Fabrizio Intonti. Ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.